Grazie a Fabrizio a questo invito che io accolgo sempre con grande felicità perché mi sento abbastanza a casa ormai qui. Sono un numero, ormai non le conto più di volte. E quindi ringrazio anche voi perché siete presenti. Con qualcuno ci siamo già conosciuti, con qualcuno magari no. Io dico sempre che è un privilegio avere un pubblico così numeroso e attento e sapiente di fronte. Per cui quando Paola ha accettato di essere presente questa sera, le ho detto: guarda, sono certa di una cosa, ti ascolteranno e questo non è poco, direi, per Hanno noi. anche un po' di soggezione, se Eh sì. posso Poi dirlo. lei ha detto vado all'estero, per cui Sì. si sente in trasferta, sta girando l'Italia da un po' con il suo libro, con l'ultimo libro dei suoi che sono appunto usciti e disponibili. Allora, Paola è una scrittrice abbastanza anomala nel panorama letterario italiano, forse anche europeo, però fermiamoci a quello italiano. Innanzitutto è una autrice di testi letterari e di fumetti e di sceneggiature, anche di teatro, ma non è una giornalista che scrive recensioni di libri. Quindi è una penna pulita, è una penna che scrive letteratura, romanzi e storie, non partendo dall'esercizio della professione giornalistica, quindi dalla facilità di scrittura e dalla velocità, ma dal pensiero e dalle domande, dalla documentazione che serve per scrivere un romanzo. Lei ha iniziato come sceneggiatrice di Dylan Dog. Dylan Dog lo conoscete tutti, è una delle penne principali nelle storie di Dylan Dog ed è anche legata a questo personaggio per più motivi, sia perché ha avuto la fortuna, il privilegio di frequentare, ancora lo ha, Tiziano Sclavi, sia perché ne conosceva l'editore Bonelli molto da vicino, sia perché la sua storia inizia proprio così. Come inizia, Paola? Tu vai in giro con quanti manoscritti in mano e di che cosa? E perché capiti da Sergio Bonelli? Allora, io cercherò di non partire da Adamo ed Eva, che è una delle mie caratteristiche. Io ho sempre scritto, non ho mai pensato che scrivere potesse essere una professione, era il mio veicolo principale per comunicare. Non ero brava a parlare come ero brava a scrivere, non ero brava a comunicare fisicamente come ero brava a scrivere, per cui io scrivevo perché era un approdo. La mamma di un amico mi sgridò molto una vigilia di Natale dicendo che no, che il mio approccio era sbagliato e che invece avrei dovuto raccogliere le cose che avevo scritto e provare a proporle. Quindi io, che soffro moltissimo di sensi di colpa e di inadeguatezza, quando lei mi ha sgridata, me l'ho subito, più che altro veramente per fare contenta lei, ho raccolto tutti questi racconti, ne ho fatto 21 copie, 21 copie si parla di copisteria e di spirale, per cui erano queste specie di mammozzi enormi, quasi ingestibili, che io mi sono caricata in spalle 21 per andare a Milano da tutti gli editori che avevo trovato sulle pagine gialle, quindi stiamo parlando di qualche anno fa. Ho lasciato 20 manoscritti, il 21esimo no, perché Rizzoli all'epoca avevo una distanza tale dall'ultima fermata della metropolitana che io pur ero stanca e non ho deciso di rinunciare. Quell'ultimo volume l'ho lasciato in segreteria alla Sergio Bonelli Editore, di cui io ero lettrice appassionata di Dylan Dog, nella speranza che uno di quei racconti venisse acquistato. E invece diversi mesi dopo mi arrivò una telefonata dell'allora curatore della serie, che è Mauro Marcheselli, che è uno dei miei tre maestri, che mi disse che trovava dei punti di incontro fra la mia scrittura e la scrittura di Tiziano Sclavi e mi proponeva di provare a sceneggiare. Io della sceneggiatura non sapevo nulla, non avevo idea proprio di come fosse strutturata, per cui lui mi mandò delle sceneggiature di Tiziano, mi disse: studiale e poi prova. E io ho provato per diversi mesi, poi mi hanno assegnato, finalmente mi hanno fatto passare il primo soggetto. Ho cominciato a scrivere, all'epoca si stampava tutto, si mandava tutto, tornavano queste sceneggiature che grondavano sangue da quanto erano rosse, perché veniva corrette con la penna rossa da Mauro. E la cosa bellissima era che c'erano queste due correzioni. Mauro correggeva con la penna rossa, quindi in maniera molto d'impatto. Tiziano no, Tiziano usava la matita, quella dura, la 3C o una cosa, e faceva questi, vergava questi segni quasi, quasi impercettibili su tutta la pagina e poi di fianco scriveva: no, no cosa? no il dialogo, no la storia, no la struttura, oddio no che cosa, e quindi mi facevano molta più paura le sue correzioni a matita di quelle di Mauro, che magari erano fin troppo esplicite, piene di punti esclamativi, piene di... E quindi io ho imparato a sceneggiare sceneggiando e a lavorare lavorando. Quindi loro mi hanno presa e per 2 o 3 anni mi hanno massacrata sistematicamente tutte le volte che io scrivevo qualcosa, e mi hanno insegnato dagli errori. Come facevo 100 errori, ho cominciato a farne 99, poi ne facevo 95, poi 92. Non li ho evasi tutti, perché ne ho ancora 3 o 4 a cui sono molto affezionata, che continuo nonostante tutto a commettere. Che fanno la differenza, che sempre fanno gli la errori. Differenza, che sono la mia impronta, per cui dico, ah guarda questa cosa è sbagliata, lei se l'ha barbato, cosa vuoi? Ed è ecco. Così. Ecco, l'ha barbato, cosa vuoi? Ma di Dylan Dog che cosa ti piaceva? Perché? Di Dylan Dog mi piaceva, io ero una lettrice, ho cominciato a 17 anni a leggerlo, e il primo albo di Dylan Dog che ho letto mi ha scioccata, perché era un albo sulla vivisezione molto diretto, e io che ho una matrice animalista ci ho patito tantissimo. Io, infatti, ho letto quell'albo e ho detto no, non ne leggerò mai più un altro perché sono stata male. E questo era un fatto, erano delle pagine disegnate che ti facevano stare male, che toccavano dei nervi scoperti, che toccavano delle zone che generalmente il fumetto ignorava, che uno semplicisticamente dice ma perché erano storie dell'orrore, quindi erano storie che facevano paura. Non è solo questo, ci sono delle qualità nella paura, la paura non è solo una, la paura ha mille sfumature. Le sfumature che andava a toccare Dylan Dog erano sfumature emotive molto personali, mettevano in discussione il lettore molto più di quanto non mettessero in discussione i personaggi, perché alla fine comunque ci si sentiva tirati in causa e tirati dentro la storia. Questo succedeva 3 albi su 5, per me 3 albi su 5 erano albi che riguardavano anche me, e questo non era facile da digerire, ed è stato un grande motivo di trasporto e di legame poi con la serie, perché una volta che tu vieni scosso in quella maniera, piano piano cominci a diventare dipendente dall'onda emotiva, e la vuoi ancora e ne vuoi sempre di più. La vuoi ancora e ne vuoi sempre di più. E stiamo cominciando a parlare di paura, perché prima Fabrizio ricordava appunto questa frase che mi sono permessa di scrivere: ognuno di noi ha una paura, ed è quello che vorrei spingervi a fare in questo momento, prima della prossima domanda, immaginare per un attimo di dover dare un nome alla vostra paura peggiore. E la paura, ovviamente, come Paola sa bene, perché lei la manovra molto bene, la manovra perché sa che ha paura, sa che ha delle paure, quindi solo chi ha paura può raccontare la paura, ma soprattutto può fare paura, cosa che secondo me connota i tuoi libri, non soltanto quando scrivi Dylan Dog, ma anche quando scrivi i tuoi romanzi. Ciascuno di noi ha una paura, ma le paure hanno colori diversi, possono essere di tipo diverso, possono essere soprannaturali, possono essere reali, legate alle cose e alle persone. Io vorrei chiederti adesso in modo largo il tuo rapporto con la paura, cioè quando tu hai capito di aver paura, in che momento hai sentito che la paura era un sentimento, perché è un sentimento di fatto, no? Ma io ci nuoto dentro da che ho memoria, e non mi ricordo un momento della mia vita in cui io non abbia avuto paura, perché io avevo le paure irrazionali, avevo le paure razionali, avevo le paure indotte, io le ho avute tutte, io credo di avere un carnet di paure pienissimo, con ciascuna ci ho ballato almeno una volta. La paura è un veleno necessario per me. Nel senso che la paura è uno dei pochi istinti che noi abbiamo preservato. Se noi non sapessimo che se corriamo a 100 all'ora verso un precipizio, poi cadiamo e non ci succedono cose simpatiche, non freneremmo, a meno che uno non sia spinto da degli istinti autolesionisti. Ed è uno dei motivi per cui determinate sostanze stupefacenti, azzerando la paura, azzerano anche l'autotutela. È una forma di autotutela. Ciò che ti spaventa ti prepara ad affrontarlo. Si ha paura di alcune cose che nella vita sono automatiche. Il lutto è un timore che noi non potremo evitare per sempre, perché a un certo punto il lutto lo affronteremo. La malattia è un grande, grande spauracchio da cui non possiamo mai sentirci completamente protetti. Poi in realtà io vado ad ampliare la cosa, perché io ho paura che un fulmine c'entri la casa, che un terremoto la tiri giù, che una mandria di cinghiali mi sfondi la rete in fondo alla casa e che vada ad abitare nel mio giardino, eccetera, eccetera. Quindi io ho paura sostanzialmente di tutto. Avendo paura sostanzialmente di tutto, il mio livello di tolleranza è alto. Per cui con la paura si impara a convivere. Non dico che si diventi amici, però si diventa coinquilini. Se si può sopportare un coinquilino che non lava mai le tazze o che spreme il dentifricio a metà, si può sopportare anche di tutte le volte che si scende una scala a chiocciola dire: vedrai che adesso manco l'ultimo gradino, vado, cado, sbatto la testa giusto qua e ci resto, e mi troverà mia figlia di 5 anni scendendo giù e rimarrà traumatizzata per sempre, perché poi le mie paure sono belle articolate come dei quadri, quindi sono precise. Senti, ma con queste paure, tutti questi pensieri che stai facendo così velocemente, componendoli, come ti vengono? Io poi ti conosco, so che sono nuovi, che non, tu non reciti un copione, sei sempre, ogni volta autentica, e questo mi piace di te. E questi pensieri li fai sempre, tutto il giorno? Cioè, questi non detti ce li hai sempre? È veramente una cosa, questa sembra una boutade, ma veramente ci si abitua. Una delle possibilità che vengono date agli sceneggiatori è quella di visualizzare. Io non ho bisogno di imparare a visualizzare, perché io visualizzo sempre. In uno dei miei romanzi meno letti, perché è stato pubblicato soltanto in Francia, c'è una descrizione ben precisa di come una donna vede tutte le volte il padre fare retromarcia con la macchina per staccarla dal muretto, e tutte le volte dice: adesso lui ha la suola della scarpa che è liscia, gli scappa sicuramente dalla frizione, la macchina fa un balzo indietro, dietro c'è mia mamma, e lei dice: ogni volta che i miei genitori lasciano la mia casa, mia mamma muore. E muore sempre. Allora, questa cosa uno dice: beh, ma te le immagini una volta. Io purtroppo sono una persona che ogni volta che prende l'autostrada, per tutto il viaggio, tiene conto che adesso quel camion sbanderà, che adesso quello gli scoppierà la ruota, che quello là sta telefonando. Una vita dura, eh? E non è una cosa razionale, è una specie di sottotraccia. Per cui io in realtà sono capace di pensare tutt'altro mentre sto pensando questo. Senti, la scrittura come interviene in questo caos di pensiero, anche molto ordinato, perché è un pensiero metodico e ossessivo? La scrittura è un po' come un colino, come una rete da pesca, passa in mezzo e tira su, perché comunque se io devo immaginare una paura, io le ho provate tutte, quindi io se ho bisogno di trovare quel tipo di paura lì, tu puoi giurarci che io una volta l'ho provata, vado a trovarla nel mio grande schedario delle paure, la prendo, la manipolo. La manipolazione è un po' come fare lo zucchero filato, quindi la paura è il bastoncino, che è quello, è un po' un nucleo, è lo stesso tipo di paura che abbiamo tutti, di cose diverse, ma quel tipo di paura è quello lì. Poi lo prendi e cominci a girarlo, a filarlo, a gonfiarlo, e lo fai diventare un'altra cosa, tenendo conto che parti sempre da una base che è solida. Il filo rosso, no? Parli di filo, no? Prima eravamo in macchina e tu hai detto c'è un capitolo del filo rosso, che è uno dei romanzi che trovate poi all'uscita. Non lo troveranno. Il tascabile esce a giugno. Ecco, appunto, il filo rosso che non c'è, ha un capitolo che tu non sei stata in grado di rileggere. Sì. Allora, quando ti ho chiesto perché e quale capitolo, tu mi hai detto: perché io da scrittrice lo riesco a scrivere, ma da lettrice non lo riesco a rileggere. Sì. Mi spieghi la doppia posizione? Perché qua ci sono persone che scrivono o per diletto o per professione, ma noi siamo soprattutto lettori in questo momento. Per cui, qual è questo cambio di punto di vista? È una cosa molto... È facilissima da provare ed è molto complessa da spiegare. Quando si dice che quando finisci di scrivere una cosa, quella cosa non è più tua, è molto vero, perché tu finisci di scriverla e poi tu la leggi e non sei più lo scrittore, ma sei diventato il primo lettore nel momento in cui la rileggi. Quindi la persona che l'ha scritta non è la stessa persona che la sta leggendo, e se poi la correggi sei pure una terza persona, e quando la rileggi sei pure una quarta persona. Questo per me è una base molto solida. Nel momento in cui faccio fuori uscire le immagini da me, quindi io le concepisco e le espello, un po' come si fa con i veleni, con le reazioni, no? Degli anticorpi. La scrittura è l'anticorpo al veleno che hai in testa. Tu hai l'immagine, l'immagine fa male, tu la prendi, la espelli e la fai diventare una parola. Dopodiché la leggi ed è come se la bevessi. e quindi ti avveleni di nuovo. Ok, quindi non ti liberi del tutto, no. In qualche modo ce l'hai raccontata, ce l'hai proposta, sì. L'hai riprovata, ma tu mantieni, quindi non è terapeutico. Ma non, la scrittura non è terapeutica, io non trovo che sia terapeutica. La scrittura è terapeutica nell'ordine in cui tu dai una forma precisa a qualcosa, ma come la scrittura potrebbe essere il disegno, potrebbe essere la musica, semplicemente trasformare qualcosa che tu hai dentro in nuce in una versione altra che forse te la rende più comprensibile. Ciò detto, non è che tu ne guarisci o che te ne sei liberato, semplicemente in qualche maniera la sublimi e quindi dici, beh, ok, adesso l'ho vista. È come quando fai la statua del tuo grande amore. L'hai fatta con questo, il grande amore, non è che sia né tornato né che ti voglia. Quindi cinismo è una delle sue caratteristiche. Senti, chi ti ha fatto paura da lettrice invece, oltre a te stessa? Mamma mia, ma far paura a me è purtroppo molto difficile. Facile. È facile. No, è facilissimo. Io ho paura di tutto. Io ho paura di tutto, allora sono non so dire il termine che mi viene, schiava, ma proprio fa un po' tristezza, un po' la schiava Isaura, fa un po' tristezza. Comunque sono una lettrice devota totale nei confronti di Stephen King, sono una kinghiana della prima ora e King mi ha terrorizzato. Anche di lui ci sono cose che ho letto una volta sola, la raccolta a volte ritorna, non l'ho letta una volta sola, non l'ho mai più letta. Una paura come ho avuto nel leggere quei racconti non l'ho mai più avuta. Ma poi a me basta un Clive Barker, a me mi basta veramente poco, da poi in su va bene tutto, perfino la Christie mi ha fatto paura, anche Agatha Christie. Però il fatto è bizzarro, perché poi io ho scritto un solo racconto dell'orrore nella mia vita e io devo dire che la notte in cui io ho scritto quel racconto dell'orrore, poi dicono, ma tu vedi i film dell'orrore e poi hai paura. Prova a scriverne uno ed andare a dormire, vedi com'è più difficile. E vale per, ma cinematograficamente, io i film dell'orrore, che tutto sommato amo, perché mi diverte comunque quel tipo di paura indotto, perché è una paura che poi alla fine tu schiacci pausa e si ferma, e non è brutto, quando non è un dettaglio da poco. Io guardo i film senza gli occhiali, sono miope, mentre stiro, di giorno, con tutte le finestre aperte, il televisore è là. Per cui io li guardo così, con mezzo occhio, e riesco a vederli. Ma è fuori discussione che li guardi in un orario anche solo del crepuscolo. Io già dalle 6 i film dell'orrore non li vedo più, solo alle 2 del pomeriggio o alle 11 del mattino, che è un buon orario. Ma al di là del fatto che tutto ti faccia paura, chi secondo te è in grado veramente di fare paura? Chi fa la paura più paura in questo momento? Cinema o letteratura, insomma, scegli tu. Ah, in questo senso? Sì. La cronaca? Ecco, la cronaca, quindi i giornali, la televisione, i fatti di cronaca. Le file imposta fanno paura. Ecco, le file imposta, anche di questo ti ho sentito parlare. Le file imposta, tu dici che quando devi andare a prendere una paura che riguarda il mondo, quindi non solo che riguarda te ma anche il mondo, ti basta poco, no? Ti basta osservare quello che è intorno, e hai fatto l'esempio delle file imposta. Allora, che cos'è che ti fa paura dell'umano, del normale, dell'umano ordinario? Obiettivamente la stragrande maggioranza dei mali che possono colpire tutta la nostra specie derivano completamente dalla nostra specie. Obiettivamente è più facile che un essere umano ti faccia del male piuttosto che un crotalo ti morda, o che uno squalo ti trangi, o che ha il famoso fulmine, o che venga il famoso... In realtà, homo homini lupus, insomma, non è che sono l'ultima a sostenere questa teoria. Io ho paura della mia specie, ma ho paura di me stessa, non soltanto degli altri. Io non ho paura degli altri, io mi rendo conto di avere degli impulsi che in determinate circostanze, sotto certi tipi di sollecitazioni, non so dove mi porterebbero. Io non metterei mai la mano sul fuoco garantendo che io non farò mai, io non penserò mai, non mi succederà mai. Io tengo presente ogni ipotesi, quindi se io ho paura di me perché so di non essere padrona di me, in nome di che cosa dovrei avere meno paura di te? E non ce l'ho. Credo che questa frase tu l'abbia detta un po' di anni fa davanti a una telecamera, eravamo io e te sedute e tu mi hai detto la stessa cosa guardando la telecamera e dicendo che ipoteticamente avresti anche potuto farmi del male, te lo sì, ricordi? Ed è assolutamente confermo. E io lì non ti conoscevo, non è bello questo però, facciamo finta di non averla sentita, io lì non ti conoscevo, ho iniziato a leggerti da quel momento e ho iniziato ad avere paura. Io invece, sì... Anche perché in realtà, e questo lo dico invece seriamente, io credo che nel panorama letterario, torniamo allora a identificare dove siamo quando parliamo con Paola Barbato, non è vero che lei ha scritto un solo racconto dell'orrore, che per me sta un solo racconto che faccia paura, ma in realtà tutta la sua produzione letteraria è in grado, oltre a raccontare storie gialle, nere, poi chiamiamole come vogliamo, thriller, perché questo è il termine che ti viene associato attribuito più facilmente, lei è in grado di fare paura, ma non solo fare paura per quella suspense, o suspense che si dice, che ti tiene col fiato sospeso e ti fa andare avanti a leggere una pagina dopo l'altra, ma perché quello che lei dice dentro riguarda profondamente quell'umano di cui parlavamo prima. Una, per esempio, delle parole chiave, secondo me, dei tuoi libri, ed è una di quelle più inquietanti, è il dubbio. Allora, tu lavori molto con questa parola, no? Intorno a questa parola. Qualcosa che ti sembra in un modo, ma poi è in un altro. Qualcosa che non viene definita fino in fondo. Qualcosa che non è del tutto eroica, ma neanche antieroica. Non so, credo che non ti piaccia, non ti piacciono, sì, né uno né l'altro. Ecco, soprattutto in uno dei tuoi libri, che è Bilico, che è un libro del 2006, C'è un dubbio molto forte, soprattutto per chi indaga, ed è un dubbio profondo. Ecco, io vorrei che tu ci spiegassi perché il dubbio è un concetto, intanto che ti piace molto e poi che ci appartiene molto. Allora, credo che il punto di partenza sia che non credo nel bianco e nel nero, quindi non credo nel buono e nel cattivo, credo che ci siano un'infinità di sfumature di grigio all'interno delle quali è presente di tutto. Quindi non esiste il personaggio positivo, non esiste il personaggio negativo e non esiste un unico punto di vista. Per me è fondamentale che il lettore si chieda sempre: ma il punto di vista del cattivo è sbagliato? Noi di solito siamo abituati a prendere le cose vedendole sempre dal punto di vista dell'eroe o chi per egli, o comunque del personaggio che conduce la storia. E non vediamo mai l'altro punto di vista. Per me questo è un grandissimo errore. Perché in realtà la buona fede è uno dei grandi mali di ogni tipo di storia. Cioè, io non credo che esistano dei personaggi convinti di fare del male, quantificato in una maniera ben precisa e circoscritto, per cui dicono: io adesso faccio questa cosa che è malvagia, ha ha ha, come sono cattivo. Per me non esiste. Esistono, facciamo un esempio, la cronaca di qualche giorno fa, una donna ha gettato dell'acido in faccia a un uomo e ha detto... Doveva soffrire, perché? Perché sono stati insieme un mese, poi lui l'ha lasciata e lei riteneva che la cosa fosse sbagliata. Allora, se noi invece di essere nella testa di quest'uomo che sta affrontando un percorso difficile, entrassimo nella testa di questa donna e vedessimo il suo punto di vista, il motivo per cui lei ha ritenuto di aver subito un torto e anche un torto umiliante che l'ha spinta a... perseguitare una persona, perseguitare le persone che amano questa persona, rifarsi e vendicarsi a 360 gradi, eppure dal suo punto di vista io credo che lei fosse convinta di fare quello che andava fatto. E questa angolazione, che è un'angolazione abbastanza inedita, per me deve essere sempre inclusa, per essere capita, perché noi non possiamo difenderci da ciò che non conosciamo, da ciò che non capiamo, possiamo non approvarlo, ma i meccanismi sono importanti e i meccanismi vanno considerati tutti quanti, perché soltanto conoscendoli si disinnescano, altrimenti si dà per scontato che questa cosa io la respingo ed è lì che questa cosa ti colpisce. È vero. Che rapporto hai col dolore a questo proposito? Perché per riuscire a fare questi ragionamenti devi metterci le mani. Sì, allora, il dolore è una cosa inevitabile. Il dolore però io non ne ho un'idea strettamente negativa. Credo che il dolore comunque intanto, in quanto inevitabile, è anche fisiologico ed è un elemento attraverso il quale abbiamo la maniera di conoscere e conoscerci e riconoscerci. Credo che nel dolore la persona conosca se stessa più di quanto non creda. Finché non ti trovi ad affrontarlo, non sai se sei coraggioso, se sei vigliacco, se sei altruista, se sei egoista. Quando facevo prima l'esempio del lutto, ma ancora di più quello della malattia, nella malattia le persone spesso si trasformano. Tu ti aspetti una persona che magari è coraggiosissima, invece in quel momento cosa fa? Utilizza la propria malattia contro gli altri. Oppure ti aspetti da una persona il massimo della fragilità e trovi che invece ha la capacità di fare uno sforzo assolutamente positivo, ma anche nei confronti di un dolore di sponda, quindi una malattia che non è nostra ma di qualcuno che amiamo. Sono le grandi prove e sono i momenti in cui il sé emerge, perché uno può dire ma io sulla carta sono così, ma il banco di prova non è quasi mai un banco di prova positivo, non è mai il grande banco di prova della vittoria, è sempre il banco di prova della caduta. Di fronte alla caduta, che può essere caduta emotiva, che può essere caduta fisica, oggettiva, un licenziamento appunto, una malattia, un lutto, qualcosa che si smarrisce, che non si recupera, è lì che noi siamo effettivamente quello che siamo. Poi per il resto possiamo diventare una bella versione di noi stessi, però noi siamo quella cosa lì e quella cosa lì esce lì. Allora, una delle paure che Paola riesce a incutere trasversalmente in tutti i suoi libri è quando mette in stato di cattività i suoi personaggi. In stato di cattività significa li chiude in un angolo, in una gabbia, dentro un camion, li mette sempre in luoghi da cui, se noi dovessimo in qualche modo immaginarci di fuoriuscire o di scappare, iniziamo a perdere il respiro, iniziamo ad entrare in affanno. Allora, avevo un maestro ai tempi del teatro che diceva che nei luoghi più stretti, cioè nella cattività estrema, lì vediamo la libertà maggiore di cui siamo dotati, lì riusciamo a sperimentare la nostra libertà maggiore. D'accordo su questa? Ecco. Moltissimo. E allora questo tuo volerci chiudere per poi invece farci riemergere, no? Un po'. Sì, è l'eliminazione delle sovrastrutture, delle convenzioni sociali, di tutto ciò che noi assimiliamo semplicemente vivendo tutti insieme, per cui ci sono delle caratteristiche nostre di cui noi siamo totalmente ignari. Allora, è molto difficile spogliare da queste sovrastrutture un personaggio. Lo puoi fare mettendolo, mi piace tra tutte le tue definizioni, mettendolo all'angolo, perché mettere all'angolo un personaggio si può fare in mille modi, si può fare fisicamente, ma si può fare anche emotivamente. Gli togli tutte le opzioni una dopo l'altra finché a un certo punto si trova in un percorso obbligato, e lì nel percorso obbligato deve per forza spogliarsi di tutto ciò che gli è stato insegnato e imparare qualcosa da solo, che poi insomma può essere un percorso di formazione e di deformazione. Sì, non ti sconvolge che sia di deformazione anche. Tu non hai paura di vedere le inversioni no, di tendenza? No, trovo che le involuzioni siano a volte più interessanti delle evoluzioni. Allora, forse perché sono più vere, più sane, a volte ecco, più primordiali. Ecco. Mani Nude 2008 vince il premio Cerbanenco, che è il premio assegnato al miglior noir italiano dell'anno. Vince con lo stupore anche che tu hai, no, per questa vittoria, ma in realtà lo stupore dovrebbe essere più legato alla forza delle tematiche contenute nel libro di Paola, perché di fatto Mani Nude non è per nulla un libro consolatorio, non è per nulla un libro che si legge come si legge un giallo classico, e ha questo nucleo di forza appunto all'interno della storia di un ragazzo giovane che si trova proiettato in maniera assolutamente violenta nel clima dei combattimenti. Allora, come ti nasce l'idea di raccontare un'adolescenza così violenta e violentata, e come ti sei posta di fronte alla scelta di affrontare un tema così molto poco femminile, lo possiamo dire, no? Sì, molto sì, poco ortodosso per chi scrive gialli, noir, thriller, insomma. Sono stati due approcci ben distinti. Il primo è nato dalla domanda appunto: noi nasciamo in un certo modo? La nostra natura è già definita? Quando dicono ma guarda che un bambino, io ho tre figlie, siamo due genitori, le abbiamo cresciute nello stesso posto nella stessa maniera e abbiamo tre figlie diversissime. Quindi è un dato di fatto che la natura, la matrice ci sia, indipendentemente da quelle che sono poi le sollecitazioni dell'educazione, eccetera. Una matrice c'è. La matrice può essere positiva o negativa in partenza, cioè si può nascere, semplificando al massimo, cattivi o buoni, o più propensi alla cattività, alla malvagità. Si può? E questa è una domanda a cui io non ho trovato una risposta, ma a cui ho provato a dare una forma. Io ho creato un personaggio, il personaggio di questo ragazzo, che è un personaggio assolutamente candido, che commette delle azioni tremende senza riuscire mai a perdere questo candore del tutto. Rimane comunque in lui una base di pulizia che non si spegne mai. E questa era una grande sfida, perché di solito si tende ad avere una visione pessimista, per cui dire: ma no, alla fine tutto si sporca, alla fine tutto alla fine si spegne, se tu dai, distruggi qualsiasi cosa. Invece secondo me non è vero, non è sempre vero, così come non è vero che si possa rieducare chiunque e che chiunque possa alla fine essere trasformato in una persona migliore, diciamo, per essere sempre molto, molto semplici. L'ambientazione, che è un'ambientazione che tra l'altro non viene mai vista in maniera esplicita, perché io ho usato come filtro il fatto che tutto ciò che viene raccontato non viene raccontato direttamente, ma attraverso gli occhi del personaggio. Quindi noi vediamo quello che il personaggio racconta di vedere. È una metafora molto forte. Potrebbe essere la metafora di chiunque entri a lavorare in una multinazionale e voglia fare carriera. Ci sono dei meccanismi che sono gli stessi. Alla fine, se diciamo prendiamo due giovani, li facciamo combattere, quello che vince ce lo teniamo e quell'altro lo buttiamo via, non è una visione aliena del mondo del lavoro odierno. Purtroppo funziona così in tantissimi ambienti, soprattutto in certi ambienti dove l'evoluzione è molto rapida. Facciamo l'esempio del mondo della moda, per essere semplici. Tu porti queste ragazze di 15, 16, 17 anni a seguire dei ritmi assurdi, con dei canoni pazzeschi, con delle pressioni molto molto forti. Quella che regge è quella che va avanti, anche se non è la più bella. Questi sono dei meccanismi che io ho applicato in una metafora che poi era molto semplice, cioè invece di avere delle persone che si confrontano, abbiamo delle persone che cercano di uccidersi. Invece di avere un ambiente che crea delle pressioni emotive, ho creato la cattività, la chiusura, l'impossibilità di uscire. E di metafora in metafora ho creato un intero piccolo ecosistema. Quindi se siamo costretti e messi nelle condizioni di doverci difendere, potenzialmente riusciamo a sviluppare una cattiveria, chiamiamola così. Diciamo che potenzialmente possiamo, oppure no, perché c'è chi soccombe. Se c'è uno che vince, c'è sempre uno che soccombe. Che atteggiamento hai nei confronti di quelli che soccombono, Paola? Sono più fortunati di quelli che vincono, dal mio punto di vista. Perché? Perché a un certo punto è finita. Invece chi vince dovrà vincere ancora e vincere ancora e vincere ancora, e per me questo è un meccanismo che stritola. Se riesci a perdere una volta e a sopravvivere, hai imparato a vivere. Invece gli altri sopravviveranno e basta. Una volta in treno parlavamo di figli, lo facciamo sempre, no? Io sempre. E te quando ci incrociamo. Anche non in treno. E si parlava di bullismo. E io ti ho chiesto, tra il bullizzato e il bullo, se tu dovessi scegliere per i tuoi figli, da che parte preferiresti stare? Allora, se devi scegliere io di avere mi ricordo, un figlio bullo o bullizzato, guarda che posso dire il contrario di quello che ho detto. Inizialmente direi figlio bullo. Figlio bullo, e così mi avevi risposto. Tu preferisco un figlio bullo o un figlio bullizzato. Perché? Perché è molto difficile, perché io sono stata bullizzata, quindi conosco l'altra parte. E credo che il bullo possa andare avanti, il bullizzato in qualche maniera si ferma lì, poi procede da altre strade, ma è una svolta, si biforca, la tua vita si biforca, non c'è niente da fare. Il bullo tira dritto, magari poi le prende, magari succedono altre cose, ma è più lineare, è una frammentazione di quello che sei. Tu sei una cosa, finché non vieni bullizzato poi sei un'altra cosa, lì la tua vita già si si apre ed è, succede sempre molto presto, quando non si dovrebbero ancora divaricare le strade. È forte questa risposta, lo so, e secondo me non tutti avremmo risposto allo stesso modo. Io per esempio non ero d'accordo, ti ricordi? Ti ho detto sì, che secondo me il bullo comunque aveva dentro già un bullizzato. Sì, però ce l'avrà, è meno manifesto, diciamo che si può anche avere pena del bullo. Però, mettiamola così, ecco, però, dei due. Però è un punto di vista molto forte. E arriviamo agli inetti, che non sono i bullizzati e neanche i bulli. Sono un'altra categoria di persone a cui Paola dedica l'ultimo suo libro, Io so chi sei. Libro di cui sta parlando ormai da un anno, perché è uscito nel 2018, quindi quasi lo chiudiamo a giugno l'anno, no? L'abbiamo aperto a Milano insieme, e lo chiudiamo a giugno con una protagonista che è un'inetta. È proprio un'inetta. Chi sono questi inetti a cui tu hai dedicato un libro? Sono i grigi, sono quelli che Dante definiva gli ignavi, quelli che in vita loro non hanno mai preso una posizione, e che non hanno mai deciso, che hanno sempre lasciato che la vita li vivesse, non hanno mai vissuto la vita, che hanno sempre lasciato che gli altri decidessero per loro, e non è mai colpa loro, non è mai responsabilità loro. Si fanno trascinare da questo grande fiume senza nuotare mai e galleggiano in qualche maniera. Di solito sono dei personaggi che nei romanzi si trovano relegati sullo sfondo, liquidati in poche parole, e io ero curiosa di vedere cosa sarebbe successo se io avessi messo in primo piano uno di questi personaggi, sollecitandolo in maniera da costringerlo a prendere delle decisioni, cosa che lui non è nato per fare. Quindi questo personaggio non è nato per assumere nessun tipo di ruolo, è nato per essere come il pongo, ecco, visto che io ho delle bambine, il pongo gli do, materia adattabile a ciò che la spinge, la sospinge, la schiaccia, la alza, la pallottola, comunque non una materia rigida che abbia una propria forma. Quanta rabbia ti scatena. Ma come non ignati. Mi piacciono, sì. Non ti piacciono. Ed è per questo che ho voluto scriverne, perché è troppo facile scrivere di ciò che ti piace, di ciò in cui ti riconosci, dici, ah, questo personaggio lo faccio così perché, guarda come lo riconosco bene. E, però devo dire che è un tipo di rabbia, quella che ho nei confronti di questi personaggi, che si va avvicinando molto, e questa invece è una cosa che io dico sempre, quindi sto per recitare la mia particina, scusatemi, nei confronti di quei personaggi che si trovano in tanti romanzi che sono già che sono uno stereotipo vivente. Per esempio, troviamo l'investigatore privato che prima era un poliziotto, poi c'è stato un evento traumatico, quindi lui ha lasciato la polizia, è diventato un alcolizzato, ma ancora un grande amico nella polizia che crede in lui più di quanto lui non crede in sé, che ha avuto un grande amore, che ha perso e che sta cercando il riscatto nell'indagine che è nel libro. Quel personaggio lì, ogni volta che lo trovo, mi vengono i vermi, perché non lo sopporto più. Però è proprio perché non lo sopporti, dovresti farlo diventare il protagonista prima o poi, senza ucciderlo. Cambiando il punto di vista, volendogli bene, trasformandolo. Ho la mia coerenza, non uccido i miei protagonisti. Senti, è una donna questa inetta del tuo nuovo libro, ed è una donna che rinviene un cellulare che qualcuno le mette, non posso raccontare molto, però qualcosa si può dire, che rinviene un cellulare, e questo cellulare non si sa a chi appartenga, forse appartiene a qualcuno che lei conosce e che ha perduto, forse no, e lei potrebbe fare mille cose, tutti noi faremmo delle cose lì, o forse qualcuno no, ma secondo me sì, eppure non fa niente di quello che noi vorremmo che lei facesse. Esatto. No? Di solito invece il lettore dice, io sono intelligente, capisco, faccio, dico, ah, no, mi ha stupito, ha fatto questo, però io avrei... Invece lei no, lei non fa niente di quello che dovrebbe fare, e si percepisce un fastidio da parte dell'autrice, che sei tu, e questo fastidio monta tanto che alcuni tuoi lettori in giro lasciano commenti dicendo è il personaggio più insopportabile del... Cioè, ci vuole una discreta dose di coraggio a far diventare protagonista del proprio romanzo un personaggio insopportabile. Sì, anche perché non è un insopportabile canonico. L'insopportabile di solito ha una capacità, una verbalizzazione della propria insopportabilità, ma parla in maniera fastidiosa, agisce in maniera fastidiosa. Invece lei fa tutto per negazione. Sì. Parla poco, fa niente, si lamenta, si piange addosso, invoca un Deus ex machina. E sulla lunga distanza il lettore comincia a dire tutti gli altri personaggi, chiunque fa qualcosa... tranne lei. È meglio di lei. Tranne lei. E questo, secondo me, è un altro tipo di cattività, molto più sottile, ed è una cattività in cui invece di mettere il personaggio io metto il lettore. Sì, è vero, lo metti in una difficoltà notevole, ma non è male stare in quella posizione, perché riesci comunque a mantenere anche qualche identificazione. Quello che tu vuoi è che il lettore trovi le sue debolezze. Comunque, no? Un'amica parassita di quel genere l'abbiamo avuta tutti, amica o amico o parente. Cioè la persona Occhio, che ti telefona solo per piangersi addosso, solo per dire mi è successo questo, mi ma hanno anche fatto noi delle quello. Volte siamo stati così, e no? Non è mai colpa loro, no. Loro non c'entrano mai, sono sempre povere vittime del caso. E quando hanno tutti questi problemi chiamano e chiedono aiuto a grappolo un po' a tutti quelli che trovano, e tu te li sobbarchi, te li metti sulle spalle, vai in giro trascinandoteli mentre loro si lamentano, spesso vivendo specularmente la tua vita. Quindi a te succede una cosa bella e loro dicono oh, che cosa bella che ti è successo, a me non succede mai una cosa simile, poi tu sei più in gamba di me e a me non succederà mai. E se a te succede una cosa brutta dicono ma tu sei forte, l'hai affrontata, se fosse successo a me. È tremenda. Senti, più donne o più uomini? Ma guarda che invece 50-50, perché io devo dire che recentemente mi sto tenendo in piedi un amico che mi scrive delle cose che io gli voglio bene, però sto facendo un po' fatica con questa eterna lamentazione. E poi la cosa tremenda che fanno queste persone è di spostare l'attenzione. Quindi se dicono non mi risponde ai messaggi e tu dici beh non scrivergli più, no? Ma poi è che lui mi aveva scritto, io gli dovevo ancora rispondere, e allora perché non gli ha risposto? Ma perché in realtà la risposta che gli volevo dare adesso non è più quella. E quindi continuano a spostare la lancetta di un po', e qualsiasi cosa tu dica comunque è posponibile a un altro problema che è emerso qua in quel momento lì mentre glielo dicevi. Sono vittime? No. Sono carnefici, cadiamo tutti sotto le loro. Va bene. Senti, in questo libro tuo, che è il primo di una trilogia, adesso esce a brevissimo il secondo, sì. Che tu scrivi in una maniera molto particolare, perché sei anche, tu lo sai che a me piace appiopparti questa etichetta, avanguardistica, cioè tu non hai paura di osare, rischiare, non sei la solita, quella roba che dicevi, il poliziotto che hai avuto. Ecco, non viaggi tranquilla nei libri che scrivi. No. Perché? Perché ti piace sperimentare. Raccontaci questo progetto. Allora, il primo è quello che abbiamo appena detto, Io so chi sei, e poi c'è Zoo, che esce sì. Adesso. E poi un terzo. Raccontaci, com'è nato? Questi tre libri, è nato prima il secondo. Allora, il secondo è nato per quella che io definisco tigna. Cioè, era una storia che mi era stata bocciata a suo tempo, molti anni fa, da un editor, che non è la mia attuale editor, che aveva detto un libro così è impubblicabile. Allora, io sul concetto di libro impubblicabile, di storia che non va raccontata perché non è raccontabile, faccio un pelo resistenza. Cioè, io credo che tutte le storie possano essere raccontate. Poi magari alcune sono più comode, altre sono scomode. Questa era una storia cosiddetta setting fisso, ovvero avviene tutta nello stesso posto dall'inizio alla fine e non succede niente. E uno dice, vabbè, invece no, perché nel suo essere in un posto fisso e nel suo non succedere niente, è ovunque succede tutto. Tutto sta a come racconti una storia. Quindi ho cominciato a raccontare per conto mio questa storia impossibile, la pubblicavo online, e mentre la stavo scrivendo mi si è come aperta una porta laterale e ho detto ma sai che secondo me questo personaggio potrebbe essere arrivato da un altro percorso, e ho cominciato a ragionare su quest'altro percorso che poi è diventato Io so chi sei. Questi due libri quindi hanno dei personaggi che passano da un libro all'altro senza disturbarsi o senza essersi necessari. Non è che se uno dice ma io leggo Io so chi sei poi non leggo Zoo allora non capisco. Assolutamente, i due libri sono paralleli, ognuno ha la propria vita, il proprio inizio, la propria fine, hanno una caratteristica che finiscono entrambi nello stesso momento con gli stessi personaggi e nello stesso luogo, hanno lo stesso identico finale, quindi confluiscono in un punto e da lì parte un unico seguito. Però se un accidentale lettore un giorno andrà in una libreria e comprerà il seguito, leggerà una storia autonoma che inizia, finisce e può ignorare bellamente che esistano le altre due. È come se fossero un prequel, un sequel e uno spin-off. Cioè tre storie che si possono combinare nella maniera che vuole il lettore. Può leggerne solo due, può leggerle tutte e tre, può leggerne solo una e avrà sempre comunque una storia compiuta. A seconda di quale sarà il primo libro che legge, avrà un imprinting che gli farà leggere in maniera diversa gli altri due. Sì, questo lo trovo molto affascinante. Io per esempio che ne ho letto uno solo e ho letto però la quarta di copertina di quello nuovo, so che andrò a fare uno zoom su una parte di quel libro, che tra l'altro è una di quelle che mi ha fatto più paura, quindi sarà, sì, sarà un'immersione abbastanza kamikaze. Sul terzo non si sa ancora molto. Però racconta qualcosa di più rispetto a questo pubblicare online, perché non è un semplice pubblicare online. Dove e che sinergia c'è con i lettori? In modo che anche loro possano, se vogliono. È una grandissima autotutela. Ecco, diciamo che è stato il mio paracadute emotivo. Cioè, io non ho pubblicato per un certo numero di anni, come capita a moltissimi autori, sì. Quindi ho interrotto il mio rapporto con la precedente casa editrice che era Rizzoli, e non è che io in quel periodo non abbia scritto, io ho scritto, ma non avevo un editore, quindi non pubblicavo. Poi in realtà mi sono domandata se per me fosse davvero importante pubblicare. Pubblicare è molto, è una cosa bella, perché comunque ti pagano, quindi mantieni la famiglia, va tutto benissimo. Però ci sono anche altri modi di mantenere la famiglia, quindi non è che la pubblicazione debba essere la prima spinta dell'autore. L'autore scrive e poi vuole essere letto. Allora, ti legge la mamma, ti legge l'amico, d'accordo, tutto bene, tutto bello. Ho scoperto che c'era questa piattaforma che si chiama Wattpad, che è una piattaforma dove chi vuole pubblica le sue cose, chi vuole le legge, nessuno paga, nessuno guadagna, è un equo scambio. Io ti do il mio lavoro, tu lo leggi, se ti piace mi dici mi è piaciuto, ma anche no, puoi anche non dirmi niente. E così ho fatto, ho preso tutti i libri che avevo iniziato in questi 7 anni e ho detto adesso io comincio a pubblicarli lì. Magari diventa una specie di approdo degli incipit perduti, perché poi io ne avevo iniziati più di uno, perché comunque c'erano tante storie che avevo voglia di raccontare, e hanno cominciato a leggermi, prima questi 10 lettori, poi 20, poi 30, quanti poi 300, adesso sono 4.000. E cosa fanno loro quando ti leggono? È come se tu ogni X proponessi loro un pezzo di libro, sì, no? Che avanza, quando che va voglio avanti. Vado avanti, ne scrivo un pezzo, non lo rileggo, non lo correggo, sono pieni di refusi. Infatti la cosa che mi interessa è che ci sia quell'ondata che io seguo scrivendo, non deve essere ripulita, deve essere un'ondata che poi va direttamente ai lettori. Quindi io, è come il cotto e mangiato, io scrivo, pubblico, loro leggono, è una cosa immediata. E cosa poi fanno dopo aver letto? Intanto mi correggono, la maggior parte di loro mi manda tutta la fila dei refusi, ma poi commentano. Pubblicamente commentano. Pubblicamente, non è una cosa social, perché non c'è uno scambio, non è che nel momento in cui ti commentano dicono poi però vieni tu sul mio libro, la maggior parte di loro non ha nulla su questa piattaforma, sono solo lettori. Ma hanno questa possibilità, che è rarissima, di leggere in tempo reale un libro mentre viene scritto. Di solito il lettore poverino è l'ultimo di una lunghissima catena, perché prima c'è l'autore, poi c'è di nuovo l'autore, perché è il primo che si rilegge, poi ci sono appunto i parenti, gli amici, poi arriva l'editor, dopo l'editor ci sono i correttori di bozze, altre figure editoriali, a un certo punto si arriva al visto si stampi, il lettore è l'ultimo, arriva a giochi fatti. Lì no, lì esiste, coesiste con l'autore durante il processo creativo e non solo. Io non subisco un'influenza del tipo ma il lettore mi ha detto che gli piace questo e quindi io glielo do. Non è dubbi. Questo. Ma io so che cosa gli è piaciuto, so cosa ha funzionato ed è un feedback che difficilmente noi abbiamo, perché magari io dico adesso c'ho quest'idea che genialata, la scrivi e magari passa sotto silenzio e tu ti accorgi che magari punti su delle carte sbagliate, oppure li vedi cominciare a fare ipotesi. Per me l'assassino è questo, e quest'altro, e quell'altro. Allora tu non è che cambi l'assassino perché ti hanno indovinato. Ma se loro si sbagliano, gli dai lenza. Non vai a negare il loro errore dicendo no, guardate. No. Lo tieni bello pulito l'errore, cose che vogliono andare, vadano come un banco di tonni, e tu invece sei in un altro mare. Da un'altra parte. E questo è piacevolissimo perché è un gioco a due, cioè è un gioco a 1 e 4.000, comunque è un gioco a 2, c'è una reciprocità. Loro danno a me qualcosa, io do a loro qualcosa, e questo scambio invece di solito avviene proprio a giochi fatti, soprattutto tu non hai, sei sempre fuori tempo massimo come autore, perché ogni lettore legge la sua storia, si fa il suo personaggio, e tu ormai hai finito, sei esaurito, il tuo terreno è bruciato e non ce n'è più. Lì invece no, hai la sensazione che siete tutti sullo stesso terreno, e questa è una sensazione per me bellissima, a cui non rinuncio e non intendo rinunciare. La trilogia si compone quindi di tre testi che sono stati pensati e costruiti in questo modo. Sì. Che spazio c'è tra la pubblicazione, come hai detto tu, online, e poi invece il libro che va in libreria? Che cosa c'è di diverso? Che scarto c'è? Di diverso non c'è praticamente nulla. Lo puliamo proprio perché è un testo grezzo, che va corretto da molti punti di vista, però il testo è quello, nel senso che molti mi chiedono, ma rispetto al testo che ho letto online, adesso mi troverò un altro libro? Assolutamente, poi non si bara, non è troppo facile col senno di poi dire, però questa cosa avrebbe funzionato meglio, no? C'è una specie di patto di onestà reciproco che io mantengo assolutamente, per cui... Questo ti ha sostenuto nella promozione poi del libro, cioè avere questi 4.000 non ti ha sottratto lettori cartacei? No. Sono due mondi diversi. Sono due mondi diversi. Che non comunicano, secondo te? A volte ci sono delle persone che l'hanno letto online e poi l'hanno anche comprato in cartaceo, che lo compreranno in cartaceo, perché questa cosa è stata fatta con due libri. Il primo era Non ti faccio niente e il secondo è stato Zo, che sta per uscire. Io ho avuto lettori che hanno comprato il cartaceo, lettori che hanno letto soltanto online, lettori che saputo che esiste il cartaceo sono andati a cercarselo online. Io ho letto commenti pazzeschi tipo non ho mai avuto così paura, cioè ci sono persone che bello quando succede. Sì, non ho mai avuto così non ho mai avuto così paura. Io non ho mai avuto così paura come per esempio leggendo Non ti faccio niente. Allora io non so quanti di voi conoscono questo libro, ma Non ti faccio niente parla di bambini, parla di genitori inadeguati e di bambini che forse vengono tolti ai genitori perché sono inadeguati, ma non vengono tolti da qualche ente di beneficenza o qualche opera pia o qualcuno in grado di allevarli, vengono tolti da qualcuno che ritiene di dover fare un'azione di questo tipo, piuttosto forte. Come ti è venuto in mente? Ma sempre per il principio di prima della paura, nell'ottica e nelle buone intenzioni di questo personaggio, lui cosa fa? Sottraendo i figli per un arco di tempo molto breve ai genitori, instilla in loro una paura tale che non possono far altro che evolvere in genitori migliori. Perché? Perché sono genitori che lasciano i figli all'abbandono, che non li curano, che non ci parlano, che non sono presenti, che danno per scontate delle cose. E quindi, in seguito a questa sollecitazione totalmente traumatica da cui i genitori non si riprenderanno mai, perché i bambini stanno benissimo, la bellezza del bambino è che il bambino viene rapito in una maniera accettabile, cioè gli fanno vedere la lettera della mamma e del papà che dice portate mio figlio a fare una gita di 3 giorni e poi me lo riportate indietro, firmato la mamma e il papà. Il bambino, quasi sempre, prende come buona questa lettera, passa 3 bellissimi giorni dove va al mare, dove va nei parchi giochi. Dove si prendono cura di lui finalmente. Dove si prendono cura di lui e il bambino è reso completamente felice, mentre a casa i genitori si distruggono e si macerano. Sottolineiamo questo, in un'epoca, gli anni 80, in cui non c'era internet e in cui i meccanismi burocratici perché partisse un'indagine per scomparsa erano pazzeschi e farraginosi, ci volevano 3 giorni perché la macchina partisse, che erano esattamente il lasso quella di durata, tempo certo. In cui il rapitore prendeva, portava via e poi restituiva i figli, ed era una forma di educazione forzata, sai, come la contrizione forzata, no? Che non viene data da amore verso Dio ma da sofferenza tale che uno si pente anche di ciò che non ha fatto. Ecco, questo meccanismo che in qualche maniera per il rapitore era assolutamente funzionale ha poi un controcanto nel momento in cui questi bambini, che hanno tutti più o meno beneficiato effettivamente di un cambiamento della famiglia, pagheranno in età adulta. Senti, sei un po' sadica anche. C'è una forma di sadismo leggera e strisciante. Allora, può essere, però... Per me, se un libro ti dà un'emozione forte, ti fa un bel regalo. Per cui sarà pure un po' sadico, ma io so di dare qualcosa al lettore o di prendermi qualcosa dal lettore, anche se poi, insomma, alla fine... Cosa ti prendi dal lettore? E mi prendo spesso il suo rancore, ma mi prendo non anche... Non è poco. No, ma non è poco, il rancore è sottovalutato come valore. Beh, io un po' ce l'ho con te quando mi fai paura, devo dire, anche perché poi non consoli, o forse consoli ma a modo tuo. A modo Qual mio? È il modo tuo? Prendi atto, prendi e porta via, più o meno. Ricordati che adesso lo sai, per cui siccome lo sai può solo andarti meglio. E te l'ho insegnato io. Ecco, questo te l'ho insegnato io, però di fatto è un insight, no? Anche lì, sì. Cioè rendersi conto che forse sottraendoti i figli tu hai 3 giorni per farci su un ragionamento. È una forma di didattica, no? In qualche modo. Sì, allora, dal punto di vista del personaggio, sì. Quando parlavo appunto della convinzione dei personaggi, questo è uno dei nodi fondamentali. Il personaggio è completamente... ma non è solo convinto, si sente proprio investito di una missione. Quindi è come se lui è... come i Blues Brothers. Ecco, poi ti sembra che sono il libro... in missione per conto di... sia finito qua, potrebbe già essere finito, ma la bellezza di questo libro è che da questo punto in avanti ricomincia. Esatto. Una mina impazzita. È come se fossero 2 libri in uno. La seconda parte, invece, è una parte che ha più a che vedere con la trama. Ecco, sì. Perché noi adesso abbiamo parlato di parole, di concetti, di pensieri, di timori, paure, però Paola ha anche le trame nei suoi libri. Allora, come ti documenti per le trame e come costruisci le tue trame? Allora, io scrivo il finale. Prima ancora che il libro abbia una forma, io scrivo il finale, sempre. I miei libri iniziano tutti dalla fine e la fine è la prima cosa che io scrivo di ogni libro. Perché è un viaggio, ma io non devo solo sapere da dove parto, io devo sapere dove approdo. Forse perché il finale in nuce contiene un po' la soluzione di tutto, contiene quello che poi è il messaggio fondamentale. Questa cosa si esplicita moltissimo in Mani Nude. Mani Nude è un libro che, quando hai letto le ultime 2 parole, ti comunica che se ricominciassi a leggerlo dall'inizio leggeresti un altro libro. Sì. È assolutamente un altro libro. Se io non avessi conosciuto quelle ultime 2 parole non avrei potuto scriverli entrambi, cioè un libro che erano 2 libri. Quindi questa è la prima cosa che io faccio, di scrivere il finale. Dopodiché dal finale si lavora a ritroso e quindi si creano dei punti nevralgici che sono tutti passibili di essere modificati. Io, usando un linguaggio della vela, tendo a strambare a metà del percorso. Perché? Perché quando ci sono tanti autori che scalettano, che si fanno magari proprio tutto un bel programma, il punto è che ti può venire un'idea migliore a metà della storia. E se tu hai tutto il tuo bel programma che già ti costringe a seguire un percorso, a quel punto lì devi buttare l'idea migliore. Invece io cosa faccio? Navigando a vista e avendo una specie di isolotto, un arcipelago di isolotti a cui in qualche modo devo prima o dopo arrivare, posso cambiare il percorso quando voglio e spesso e volentieri lo faccio mentre sto scrivendo. Poi c'è il lavoro di documentazione, che è un lavoro micidiale, il quale viene fatto da me dopo, perché se lo faccio prima mi muore qualsiasi vena, perché i fatti sono incontestabili, quindi io posso rettificare un errore, ma non devo invece basarmi sul fatto. Cioè io posso inventarmi, facciamo un esempio che avviene proprio in Non ti faccio niente. In Non ti faccio niente io avevo dei personaggi che rilevavano delle impronte digitali e dopo 3 ore veniva il responso e improvvisamente cambiavano la direzione dell'indagine. Tutto molto bello. Poi ho parlato con un dattiloscopista, che credo sia il termine giusto, e gli ho detto, ma da quando rilevate l'impronta a quando avete il risultato? Quanto passa? Io ho fatto 3 ore, ma se passa una notte? Così lui mi ha detto, 9 minuti. Dobbiamo rivedere un po'. 9 minuti, perché? Perché ormai si fa la scansione arriva al database, il database italiano non è come il database americano, che è vastissimo, è un database più modesto, e quindi i minuti che servono più o meno sono 9. Quindi io ho dovuto prendermi quella scena lì e quindi anticipa tutta una serie di movimenti, posticipa una serie di movimenti e usa i tuoi miserabili 9 minuti per metterci dentro quello che doveva avvenire in quell'arco di tempo. Preferisco fare questo piuttosto che sapere da prima di avere 9 minuti, perché quei 9 minuti piegheranno la mia scrittura, che invece non deve essere piegata. Piuttosto la rimaneggiamo dopo e la rammagliamo. Hai anche un ossessivo rapporto con le previsioni del tempo. Sì. Ci racconti. Però questo è un problema che è stato molto vincolato a Io so chi sei, perché Io so chi sei è uscito nel 2018 iniziava nel 2017 e terminava marzo 2018, quindi terminava veramente 3 mesi prima dell'uscita. Ambientato in una città, Firenze, perfettamente riconoscibile, e avvenivano delle cose nell'arco dell'estate, della primavera, dell'autunno e dell'inverno. Ora, io non volevo che in una scena dove i personaggi sotto l'acquazzone corressero fuori, ricevere il commento di Pier Giorgio da Firenze che mi diceva: quella sera lì, l'era il mio compleanno. E siamo andati tutti fuori a fare il picnic all'aperto perché c'era un cielo stellato meraviglioso. Quindi, perché arrivano questi commenti, arrivano, lo sai. E hanno ragione loro, perché è mio dovere, se io voglio un acquazzone, visto che esistono i meteo online che ti tengono conto di tutto quanto, nell'arco di un'estate andarmi a cercare la sera in cui a Firenze ci fu l'acquazzone che serviva a me. Ecco, per cui cioè, hai una dose di ossessività che ti accompagna, sì, e di precisione che ti accompagna nel documentarti e nel procedere. Vedo che Fabrizio mi guarda al fianco, possiamo andare avanti ancora con qualche domanda? Un paio di minuti. Allora, chiudiamo questa nostra panoramica sulle tue paure, le nostre, le ossessioni, i dubbi, le intermittenze, gli eroi e gli antieroi, con una domanda che ci può servire da lettori. Allora, è una domanda di solito che fa cogliere impreparati, no, gli ascoltatori, perché di solito la vita nostra è fatta di infiniti libri. Ma se tu idealmente pensassi al tuo lettore, il tuo lettore come dovrebbe essere? Che libri dovrebbe aver letto? Dimmene 3 di titoli. Allora, in realtà non è una cosa che riguarda il mio lettore. Secondo me ci sono dei libri che sono libri che andrebbero letti proprio per una questione di formazione emotiva. Il primo è La città ai cani di Mario Vargas Llosa. È un libro che mi ha fatto stare malissimo. Ecco, però, sì, malissimo nel senso positivo. Positivo, intendi? Perché era un libro a cui a un certo punto tu cominci a credere. Non leggi più una storia, ma cominci a crederci. E ci sono dei passaggi che fanno proprio tanto, tanto, tanto male. Poi, inevitabilmente, da Kinghiana della prima ora, non posso non dire It, perché It è forse il libro che racchiude i libri. Per me è un libro che non è affatto un romanzo dell'orrore. C'è anche un romanzo dell'orrore, ma un romanzo d'amore, un romanzo d'avventura, un romanzo di formazione, un romanzo sociale. Ci sono talmente tanti aspetti che ce ne si può nutrire a lungo. Il terzo libro è una grande battaglia tra due autori che io amo tantissimo, e sono Stefano Benni e Daniel Pennac, che sono per me due dei dialoghisti più straordinari. E perché sono straordinari? Perché non raccontano storie sulla base della credibilità, raccontano delle storie che sono leggermente sfasate rispetto alla realtà come la conosciamo, con una grande matrice anche comica e brillante. In questa matrice la cosa più facile che possa avvenire è di sbagliare i dialoghi. E loro non sbagliano un dialogo, quindi andando sul proprio terra, direi Il paradiso degli orchi, primo della saga dei Molossen per Daniel Pennac, oppure nel caso di Benni io consiglio Elianto, che sembrerebbe un libro diretto ai ragazzi, invece secondo me è un libro che parla tantissimo agli adulti attraverso i ragazzi. Benissimo, e allora con questi consigli d'autore io ringrazio Paola Barbato di essere stata qua con noi, di essersi spesa generosamente, e ringrazio voi di essere stati presenti, attenti e precisi. Grazie mille a Elisabetta Bucciarelli e a Paola Barbato, grazie tante. E a voi.